Siamo qui con la direttrice della Casa Circondariale di Bologna, Rocco D'Amato, Rosa Alba Casella, in occasione della presentazione di Estate alla Dozza. E se ci vuole presentare il progetto e come è nato, insomma. Il progetto è nato dalla collaborazione col Comune di Bologna, che ci ha consentito di far diventare la Dozza uno dei luoghi di Estate Bologna. Estate Bologna è un'iniziativa che ormai tutti conoscono e che vede durante tutta l'estate le piazze di Bologna animarsi di spettacoli, di musica e di teatro. Quest'anno uno dei luoghi di Estate Bologna sarà la Dozza. L'offerta degli spettacoli è assolutamente di grande livello, è stato già sottolineato, e a me piace ribadire che si tratta di spettacoli che non riguardano il carcere, le cui tematiche non attengono al carcere, ma che sono spettacoli portati dentro il carcere, ma pensati per un pubblico che sia esterno oltre che interno. In questo modo la Dozza diventa un luogo di cultura come i tanti del puzzle che compone Estate Bologna. Qual è, diciamo, l'obiettivo principale di questa commistione di pubblico tra detenuti e cittadini bolognesi? L'iniziativa è una delle tappe del percorso che stiamo portando avanti da tempo, che è quella di favorire l'integrazione tra il carcere e il territorio, quindi dare la possibilità ai cittadini di assistere ad uno spettacolo all'interno del carcere consente loro di conoscere anche la realtà penitenziaria, che spesso è, anche per la collocazione fisica della struttura, un po' ai margini, e nel contempo ai detenuti di partecipare ad una delle tante iniziative al pari degli altri cittadini. Quali sono, diciamo, le speranze per il futuro? Cosa spera che porterà questo ciclo di spettacoli? Allora, io mi auguro che questa sia una delle tante iniziative di quel percorso di integrazione di cui parlavo prima. Tante sono le iniziative che si svolgono a Bologna. Bologna è una città piena di iniziative. Ecco, a me piacerebbe che alcune di queste, e non solo in occasione Estate Bologna, trovino spazio anche all'interno della Dozza, perché la cultura, la bellezza e la musica sono strumenti ed opportunità per agire quel cambiamento necessario nei percorsi di recupero di chi ha sbagliato. Grazie mille. Prego.